terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Non ci poteva essere al mondo creatura più felice della signora Knightley durante la sua breve permanenza ad Hartfield. Ogni mattina faceva coi bambini il giro delle vecchie conoscenze. Ogni sera chiacchierava col babbo e la sorella di ciò che aveva fatto. E se qualcosa poteva desiderare di più, era che i giorni non passassero così di volo. Fu un soggiorno delizioso. Perfetto, anzi, proprio perché troppo breve. In genere, la sera era meno impegnata con amici che il mattino, ma per quanto si fosse di Natale, era impossibile evitare almeno un regolare invito a pranzo per giunta fuori casa. Il signor Weston non volle sentir ragioni. Tutti erano aspettati a Randalls un giorno. E lo stesso signor Woodhouse finì per lasciarsi convincere che la cosa era fattibile, piuttosto che la compagnia si dividesse. Qualche difficoltà avrebbe volentieri sollevato intorno al modo di trasportare tutti quanti a Randalls, se avesse potuto. Ma siccome la carrozza e i cavalli del genero e della figlia si trovavano ad Hartfield, su questo punto non riuscì che ad avanzare un'umile richiesta, una richiesta che non era nemmeno un dubbio. Né occorse molto ad Emma per convincerlo che in una delle vetture poteva trovare posto anche Harriet. Harriet, il reverendo Elton e il signor Knightley, insomma il vero e proprio cerchio di famiglia, furono le sole persone invitate insieme a loro. Tenuto esatto conto delle abitudini e dei gusti del signor Woodhouse, l'ora doveva non essere tarda e ristretto il numero dei commensali. La sera prima di questo grande avvenimento, giacché tale era senza dubbio il fatto che Mr. Woodhouse pranzasse fuori casa il 24 dicembre, Harriet l'aveva passata ad Hartfield e s'era preso un raffreddore così violento che non fosse stato per il suo desiderio di farsi curare dalla signora Goddard, Emma non l'avrebbe certo lasciata partire. Andò a trovarla il giorno dopo. E constatò che, quanto a Randalls, il suo destino era ormai segnato. Aveva febbre alta e mal di gola. La signora Goddard era piena di cure e di trepido affetto. Emma le rimase accanto più che poté per assisterla durante le inevitabili assenze della signora Goddard e per tirarle su il morale, facendole presente quanto sarebbe rimasto in pena il reverendo Elton nell'apprendere le sue condizioni, e infine la lasciò abbastanza rassegnata nella dolce certezza che per lui sarebbe stata una malinconica sera e che tutti avrebbero terribilmente sentito la sua mancanza. Non aveva fatto molti metri dalla porta di Mrs. Goddard quando si imbatté nel reverendo Elton in persona, che evidentemente vi si recava, e mentre camminavano insieme a passo lento chiacchierando della malata, furono raggiunti dal signor John Knightley, di ritorno dalla quotidiana visita a Donwell con i due figli maggiori. I due gruppi si unirono e continuarono insieme. Emma stava appunto spiegando la natura dei disturbi dell'amica. Gola molto infiammata con un bel po' di bruciore, polso debole e veloce, eccetera. E l'addolorava sentire da Mrs. Goddard che Harriet era facile preda di forti mal di gola e lei se n'era spesso allarmata. Al che il reverendo Elton parve inquietarsi ed esclamò: «Mal di gola? Non infettivo, spero! Non di tipo putrido infettivo, mi auguro! Perri la vista? Dovrebbe aver riguardo di sé non meno che della sua amica signorina Woodhouse. Perché non la visita, Perri?» Emma, che per parte sua non era affatto spaventata, calmò questo eccesso di apprensione rassicurandolo sull'esperienza e le vigili cure della signora Goddard. Ma poiché un certo grado d'ansia era necessario rimanesse, e non solo non desiderava eliminarlo con validi argomenti, ma era piuttosto incline a nutrirlo e a secondarlo, aggiunse subito come se si trattasse di tutt'altra cosa: «Fa tanto freddo! Un freddo così pungente! C'è una tale aria di neve che oggi, se fossi in tutt'altro posto o in tutt'altra compagnia, Cercherei di non metter piede fuori casa e sconsiglierei a mio padre di arrischiarcisi. Ma poiché ormai si è deciso e non sembra che abbia freddo, mi secca di intromettermi, ben sapendo che per Mr. e Mrs. Weston sarebbe una grossa delusione. Ma parola d'onore, reverendo, se fossi nei suoi panni, certamente mi scuserei di non poter venire. Mi sembra già di sentirla un po' rauco, e se si considera quanta voce e fatica le chiederà la giornata di domani, credo non sarebbe nulla più di un'elementare prudenza rimanere a casa stasera e aversi riguardo. Il reverendo Elton aveva l'aria di non sapere bene che risposta dare. E proprio così stavano le cose, in realtà, perché, sebbene molto edificato delle gentili premure di una così graziosa fanciulla e niente affatto incline a rifiutarne i consigli, non sentiva proprio nessuna inclinazione a rinunciare alla visita. Ma Emma, troppo assorta nei suoi piani e nelle sue idee preconcette per ascoltarlo con distacco o vederlo con occhi limpidi, si compiacque altamente della sua balbettata conferma che sì, faceva molto freddo, certo, molto freddo, e continuò a camminare tutta lieta di averlo svincolato da Randalls e messo in condizioni di mandare a prendere notizie di Harriet ad ogni ora della sera. «Molto bene. Faremo noi le sue scuse a Mr. e Mrs. Weston.» Ma l'aveva appena detto che suo cognato offrì cortesemente un posto nella sua vettura se per il reverendo Elton non c'era che l'ostacolo del tempo, e il signor Elton fu pronto ad accettare con gioia l'offerta. Era cosa fatta. Il reverendo Elton era ormai impegnato ad andare. E mai la sua bella, larga faccia aveva espresso più gioia che in quel momento. Mai il suo sorriso era stato più luminoso e i suoi occhi più raggianti che quando subito dopo si volse a guardarla. «Che strana cosa!» si disse Emma. «Dopo che l'avevo così abilmente tolto d'impaccio, preferire di andare in società e lasciare a casa Harriet ammalata. Stranissimo davvero. Ma è, credo, un tratto comune a molti uomini, specie agli scapoli, la passione di mangiar fuori. E appunto questo deve essere il caso del reverendo Elton. Strana cosa l'amore. Riesce a trovare sveglia Harriet, ma non vuole per amor suo pranzare solo.» Poco dopo, il reverendo Elton li lasciò. Ed Emma non poté non riconoscere che nel modo come, al punto di separarsi, nominò Harriet, c'era molto sentimento, e ve n'era molto nel tono della voce, mentre le assicurava che sarebbe andato a chiedere notizie della sua bella amica alla signora Goddard, ultima cosa che avrebbe fatto prima di prepararsi alla felicità di rivederla, nella quale occasione sperava di potergliene dare di migliori. Dopo qualche minuto di silenzio completo, John Knightley cominciò. «Mai in vita mia ho conosciuto uomo più ansioso di rendersi piacevole che il reverendo Elton. Ci si mette d'impegno quando ci sono di mezzo delle signore. Con gli uomini sa essere freddo e compassato, ma se si tratta di piacere a una donnina, tutti i suoi lineamenti sono in moto. Le maniere del reverendo Elton non sono perfette», rispose Emma. «Ma dove c'è desiderio di piacere, bisognerebbe passarci sopra. In realtà si passa sopra molte cose. C'è nel reverendo una cordialità e benevolenza così perfetta che non si può non apprezzarla.» «Sì, con te, Emma, sembra averne parecchia», disse dopo un po' il signor John Knightley con una certa malizia. «Con me?» rispose lei con un sorriso di meraviglia. «Ti sei fatta l'idea che il reverendo Elton mi abbia messo gli occhi addosso? Un'idea simile mi ha attraversato la mente, lo confesso, Emma. E se non ti è mai venuta prima, nulla ti impedisce di prenderla in considerazione ora.» «Il reverendo Elton innamorato di me? Che idea!» «Non dico che lo sia, ma è un'eventualità che farai bene a meditare per regolarti in conseguenza. Ritengo incoraggianti i tuoi modi nei suoi riguardi, Parlo da amico, Emma. Farai buona cosa a tenerti d'occhio e saper di preciso che cosa fai e che cosa intendi fare. Grazie. Ma ti assicuro che ti sbagli di grosso. Il reverendo Elton e io siamo ottimi amici e niente di più. E tirò via, divertendosi al pensiero degli abbagli in cui spesso si incorre per una conoscenza incompleta dei fatti e degli errori in cui anche persone di grandi pretese intellettuali non finiscono mai di cadere. E non molto contenta del cognato per quel suo immaginarla cieca, ignorante e bisognosa di consigli. Quanto a lui, non disse altro. Il signor Woodhouse si era talmente assuefatto all'idea della visita che, nonostante il freddo sempre più pungente, sembrava non aver nessuna idea di rinunciarvi. E infine salpò puntualmente con la figlia maggiore nella carrozza personale, meno sensibile all'inclemenza del tempo, così parve, di qualunque altro. Troppo pieno dello stupore della sua partenza e del piacere che avrebbe procurato a Randalls per accorgersi che faceva freddo, e troppo ben imbottito per sentirlo. Il freddo tuttavia era intenso, e appena la seconda carrozza fu in moto, qualche fiocco di neve cominciò timidamente a cadere, e il cielo aveva tutta l'aria d'esserne talmente saturo che gli bastasse solo un'aria più mite per avvolgere rapidamente la terra in una coltre bianca. Emma non tardò ad accorgersi che il compagno non era dell'umore più felice. Prepararsi e mettersi in viaggio con un tempo simile e dover per giunta rinunziare ai figli dopo cena era un guaio, o perlomeno un fastidio, che al signor John Knightley non andava affatto a genio. La visita non prometteva nulla che valesse la spesa, e l'intero percorso fino alla canonica fu da lui occupato a esprimere il proprio disappunto. Un uomo deve avere un'opinione ben grande di se stesso per chiedere ad altrui di abbandonare l'angolo del camino e affrontare una giornata come questa per il gusto di fargli visita. Deve ritenersi una persona straordinariamente attraente. Io, per me, una cosa simile non la potrei fare. È un'assurdità bella e buona. Ecco che si mette a nevicare sul serio. Follia non lasciar godere al prossimo le gioie della casa. Follia non starsene tranquillamente tappati in casa propria quando si può. Se fossimo costretti a uscire con una serataccia come questa per ragioni di affari o di dovere, che penitenza ci sembrerebbe. E invece eccoci partiti volontariamente e senza nessuna scusa, forse più leggeri del solito e sordi alla voce della natura che dice all'uomo, in qualunque cosa offra alla sua vista o alla sua ragione, di starsene a casa e tenere al riparo tutto quello che può. Eccoci in viaggio per passare 5 ore insulse in casa d'altri, con nulla da dire o da sentire che non sia stato detto o sentito ieri e che non possa essere ridetto o riascoltato domani. Partire con un tempo da lupi e tornare probabilmente con uno anche peggiore. Tirar fuori 4 cavalli e 4 servi per nessun'altra ragione che di trasferire 5 creature oziose e piene di brividi in stanze più fredde e in compagnia peggiore di quante ne avrebbero trovate a casa. Emma non si sentì di dargli il compiacente assenso che senza dubbio era avvezzo a ricevere, di emulare il verissimo amor mio che di solito la compagna di viaggio doveva somministrargli, ma era abbastanza risoluta per non trattenersi da una risposta qualunque. Dargli soddisfazione non poteva. Di attaccar briga aveva paura. Il massimo a cui il suo eroismo poté spingersi fu dunque il silenzio. Lo lasciò parlare e ripulì i cristalli e si ravvolse nella coperta senza aprir bocca. Arrivarono, la carrozza svoltò, fu abbassato il predellino e il reverendo Elton, tutto lindo, nero e sorridente, li raggiunse subito. Emma pensò con piacere a un possibile cambiamento di tema. Il reverendo Elton Era tutto cerimoniosità e gaiezza. Invero appariva tanto gaio nel suo cerimoniale che Emma cominciò a pensare avesse ricevuto di Harriet notizie diverse da quelle che erano giunte a lei. Aveva mandato a chiederne mentre si vestiva e la risposta era stata: su per giù lo stesso, non meglio. Le mie informazioni, disse, non erano buone come speravo e la mia risposta suonava non meglio. Di colpo la faccia di lui si allungò e la voce gli vibrava di sentimento quando rispose. Oh no, mi duole di sapere. Stavo appunto per dirle che quando mi sono recato dalla signora Goddard, che è stata proprio l'ultima cosa prima di tornare a vestirmi, mi si è detto che la signorina Smith non stava affatto meglio, anzi, piuttosto peggio, molto dolente e preoccupato. Mi lusingavo che stesse meglio dopo il cordiale che sapevo esserle stato propinato la mattina. Emma sorrise. La mia visita ha giovato, spero, alla parte nervosa della malattia. Ma neppure io so stregare il mal di gola, giacché si tratta in realtà di un violento raffreddore. Il signor Perry è stato a visitarla, come probabilmente sa. Sì, lo immaginavo, cioè non è abituato a curarla per questi disturbi e spero che la mattinata di domani porterà ad entrambi notizie più rassicuranti. Ma è impossibile non sentirsi in pena, una perdita così triste per la nostra riunione d'oggi. Terribile, proprio così, davvero. Ne sentiremo continuamente la mancanza. Frase molto appropriata. E prezioso il sospiro che l'accompagnò. Ma avrebbe dovuto durare di più. E quando solo mezzo minuto dopo cominciò a parlare d'altro con voce della massima alacrità ed esultanza, Emma ne fu piuttosto sconcertata. «Che splendida idea!» disse. «L'uso del pelo di pecora per le carrozze! È un pomeriggio molto freddo, ma in questa carrozza non ci se ne accorge neppure. Oh, nevica leggermente a quanto vedo!» «Sì!» disse John Knightley, e temo che ne verrà un bel po'. Tempo da Natale, osservò il reverendo Elton. Proprio come la stagione vuole, e possiamo ritenerci straordinariamente fortunati che non sia cominciato ieri e non abbia impedito la riunione d'oggi, come certo avrebbe potuto fare. Giacché il signor Woodhouse, se ci fosse stata per terra molta neve, non si sarebbe mai arrischiato a uscire. Ma ormai non ha più importanza. Proprio la stagione adatta per amichevoli riunioni, questa. A Natale ognuno invita a casa sua gli amici e poco ci si preoccupa del maltempo. Una volta la neve mi bloccò tutta una settimana in casa di un amico. Ebbene, non si sarebbe potuto immaginare nulla di più piacevole. C'ero andato per una notte e non potei ripartirne che lo stesso giorno della settimana dopo. Il signor John Knightley aveva tutta l'aria di non capire che piacere fosse mai, ma si limitò ad osservare freddamente. «Non ho nessuna voglia di rimaner bloccato una settimana a Randalls!» In tutt'altro momento Emma si sarebbe divertita, ma era troppo sconcertata dell'umor festoso del reverendo Elton per provare sentimenti diversi. Harriet sembrava completamente dimenticata nell'attesa di una sera di festa. «Abbiamo la certezza di un bel fuoco», continuò lui, «e di tutte le comodità possibili. Persone affascinanti, Mr. e Mrs. Weston. Lei al di sopra di ogni elogio e lui proprio quello che si apprezza, tanto è ospitale e socievole. Sarà una compagnia ristretta, ma quando sono scelte, le compagnie ristrette sono le più piacevoli. La sala da pranzo del signor Weston non ospita comodamente più di 10 persone e, per parte mia, date le circostanze, preferirei che fossimo piuttosto 2 di meno che 2 di più. Credo che lei sia dello stesso parere», fece voltandosi con voce melata ad Emma. «Credo di riscuotere tutta la sua approvazione, sebbene forse il signor Knightley abituato ai ricevimenti in grande stile di Londra, non possa entrare nel nostro ordine di idee. Non so nulla dei ricevimenti in grande stile di Londra, reverendo. Non pranzo mai con nessuno. Davvero? Chiese in tono di meraviglia e compassione. Non immaginavo che l'avvocatura rappresentasse una schiavitù così grave. Signore, verrà tempo che sarà ripagato di tutto ciò quando avrà meno impegni di lavoro e grandi motivi di diletto. Il mio primo diletto sarà di ritrovarmi sano e salvo ad Hartfield, rispose John Knightley mentre attraversavano il viale di accesso. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.